Attenzione, canale 10, cambi da pira. Hola. Radio 1, 2, 3, prova radio, quello di 10. prova radio 1, 2, 3, prova radio 1, 2, 3 A, prova radio 1, 2, 3, prova radio A, prova prova radio A, 1, 2, 3, canale 10 1, 2, 3 A, prova prova radio 1, 2, 3, prova A, prova radio A, prova A, prova radio 1, 2, 3, prova A, prova 1, 2, 3, prova radio sembra che va bene. C'è qualcuno su 10? Ti puoi esprimere liberamente, capito? E infatti degli youtuber che fanno informazione, come che si dice, Tony, alternativa, hanno dovuto abbandonare YouTube perché li bloccavano e aprirsi un sito loro, capito? Pagando, si sono aperti un sito loro, un blog loro e fanno tutto lì. Sì, ma io ripeto, a me che dove bloccano, non me ne frega niente, ho sono YouTube. Come sono? Anche sulle chat entro io, guarda un po', non so quante ne ho di chat. E posso sputtanare quanto voglio. E le persone che lo fanno, occupa uguale, occupa un altro. A me non me ne porta proprio niente. È un governo ladro, lo sappiamo. Poi chi dà più fastidio quel grillo pagliaccio, nato, pasciuto, non lo dà pagliaccio. Io te lo ti giuro, se lo vedo mi piace il culo, però ho saputo che conto lo viene incazzato. Mi informerò. Allora quel giorno dirò, se è il giorno feriale mi prenderò un giorno di permesso. Però gliene canto quattro, ma non è forte nulla. Parassita, per carità. Io mi ricordo benissimo che Grillo prima di entrare al governo, i grillini, scottelle, Grillo parlava nelle piazze contro il PD. Ci facciamo tornare i soldi che ci hanno rubato, quanto ne dicevano. Poi con il cittadinanza ha preso più voti, giustamente. Oppure, quando poi Savini se n'è andato via, è successo casino, denuncia quello o quell'altro, non sapevano se lo faceva il governo, Grillo stesso in televisione, lo sentito, ti ho detto. A io pedì, svegliatevi che in un'altra occasione così non capiterà mai. Brutto pezzo di merda, hai fatto a pezzi il PD e poi ti ci ha letto sul PD. Guarda, per carità, è meglio che io non lo vedrò mai a Sassari, perché sono il primo che lo prenderò a calci in culo. Veramente, mi avvicino a calci in culo. Lo odio talmente tanto che non lo posso vedere cazzo. Sì, ma lo sai come fanno, no? Chiunque sia al potere, che sia sindaco, tutto il cordone in polizia, capito? Perché adesso che sanno che forse buscano, allora ci fanno circondare da polizia locale, polizia, carabinieri. Difficilmente uno riesce a raggiungerlo anche. Ne può dire quattro a distanza, però anche lì già lo sai, no? Che c'hanno tutti i mezzi, se vogliono, per rompere le balle. E comunque mangiano tutti nello stesso piatto, tutti, Salvini, Cogio, tutti nello stesso piatto mangiano, fanno le finte opposizioni, in realtà non ce n'è opposizione, era meglio ai tempi, guarda, di Berlinguer a sinistra e Almirante a destra, almeno erano più definiti i gruppi, adesso è tutta una cozzaglia di, si aumentano i vitalizi, e non proprio sputare sulla povertà, vabbè dai. Ma guarda che con voi, per diventa questo presidente direttore del lì, che ha aumentato lo più e la gente senza capo cura. Grazie al PD comunque. Che non prende culo, no, a me piace la Verone. Una cosa che a me mi è piaciuta moltissimo più di tutti, che fa togliere il rito cittadinanza. Questo vuol dire rovinare l'italiano, perché molti non si alzano la mattina a lavorare, forse lo stipendio, molti si comprano la droga perché così, perché li vedo anch'io. molti soldi le compro incassate, perché l'ho visto anch'io, ma capisci, lo dico a voce alta, vuole tolto, ce lo fa lavorare a pulire le città, dalla sporcizia che c'è, no, niente, le tieni in casa, fa nulla, rimane fanullona, faccio vedere la sottezza di paraflu che ha detto Cote, che scade quest'anno e non lo rinnova, c'è sempre proprio per non le danno, non lo so, questo è una pizza più che hanno dato alla gente più fannullona e drogati, gli danno i soldi e stanno in casa, è sbagliato, gli danno un lavoro e dove gli danno il lavoro, assolutamente, questo è il governo che sta questa, poi non parliamo degli extracomunitari, che viene notte, dice l'altro, via, ha la ragione Bussi, a canonate l'avrei preso, questo vanno in Turchia, troppi, troppi, perché il governo italiano ci mangia su queste persone, ecco perché le fanno arrivare sopra. E questo lo faceva prepotenti, ma questi testi di paraflua, quello non ho capito, che un domani ce ne sono talmente tanti che comandano loro qua e noi siamo zero, e questa è pura realtà. Ricorda queste parole, se continua così avremo un pezzo. Sì, sì, sì, ho visto la notizia, mi pare ieri notte con barchini, non barconi, erano barche piccole, a Lampedusa mi pare 400 e tanti, e poi roba di stamattina altri 150, ma dove ce li mettiamo questi? E poi occhio che questi si allargano a dismisura, mi, e fanno come al Corso Vittorio Emanuele, che la gente se ne fugge, che non vuol casini, e certi quartieri diventano loro, come già è adesso. Eia. Dunque l'italiano non si muove, l'italiano non si muove, cioè per quanti abusi e restrizioni possano fare, l'italiano non si muove a meno che non gli tocchi lo stipendio, cioè l'italiano gli devi togliere il reddito, che sia una pensione, che sia uno stipendio, che sia reddito di cittadinanza, lo devi privare proprio del pane, se no l'italiano non si muove, l'italiano è troppo drumillo, così è. Io guarda, me lo sono studiato diversamente, tanto ormai non spingo a aperto la pensione, io mi farei fuori uno al giorno, ma con un'arma silenziosissima, se sono armi silenziose, guarda, di questo senso extracomunitari, aspetta, chi è che mi sta chiamando? Ma forse devo finire, guarda, aspetta un attimino. Ehi, fai pure, fai. Chi altro c'è sul 10? Avanti. Prova, test. Avanti il fisco, avanti. Nulla, timido, va bene. Ecco qua. A forza tu, mi ha chiamato che è già arrivato a posare. Meglio così. Perché, niente, ti stavo dicendo, tutti qua, li farei fuori uno per uno. Ogni giorno uno, ogni giorno uno. Se mi cominci a mettere 10.100, non ricorderò di raccanto. E la gente si deve svegliare di là, insomma. Qualche uno si è rotto le palle e questi che vogliono fare fuori fanno sparire la città. Ed è una cosa bellissima, guarda, io sono uno più piccolo del mondo. Non me ne fate nulla, quando siamo tutti fratelli, con le palle, io fratelli Gaimone non lancio, e mi dice al guru, lo governo, il Papa è che me la giochi la compagna, è morto quel carabiniere, il Papa non ne ha parlato, muore un ex comunitario e parla il Papa, ma che cazzo sì, ma chi ti ha messo, ma va a far culo. Occhio che quelli sono anche mezzi per mettere gli italiani uno contro l'altro, mi così far entrare extracomunitari, poi ci sono malumori, scontri tra italiani extracomunitari o tra italiani stessi, anzi sembra una cosa fatta apposta se ci pensi, per creare malcontento tra le persone, sarò paranoico però, aspetta che mi leggo un messaggio un attimino, riprendi Tony. Ma l'unica soluzione è questo, ma non solo io, dovrebbero farlo quasi tutti. Persone che hanno le palle sotto, ammazzate un po', ogni giorno. Vedrai che non diventano più padroni nel corso di Vittorio Emanuele come stanno facendo. Poi ne parliamo in piazza San Antonio, poi là ci sono i rumeni, ladri, e di tutto un po'. Perché alla pavraccia mica mia, tempo fa, ha fatto la spesa, l'ha appoggiato una fine fortuna che non era più alta e lo faceva, ha fatto gli antichi a scuola vicino e l'ha rubato la spesa. Questo è domenica, definizione, ammazzarlo a Mavuva. Come Bosco, questo bisogna fare. Purtroppo, io con la testa sono per la propria vita. Tanto, nella vita ho avuto tutto. Ho avuto un po' di anni, oppure se continuo così lo farò veramente. Non me la possibilità. Vabbè, quello di ammazzare, anch'io lo dicevo scherzando, certo, vabbè, non è che li puoi ammazzare, però c'è da fare un blocco navale. Ma guarda che questo è un LUS, queste associazioni un LUS, li vanno a prendere con queste navi, tipo come si chiamano, vabbè, hanno tanti nomi, una era là, vabbè, non mi ricordo. Li vanno a prendere a domicilio sulle coste libiche. Proprio lì, fra un po' ci troviamo mezza Africa in Europa o in Italia. Per esempio, ho sentito anche da un paese del nord, non mi ricordo se è Norvegia o Svezia, anche lì sono messi abbastanza male. Ne hanno fatto entrare troppi, poi già lo sai la cultura che c'hanno, fanno il comodo loro in casa di altri, cosa che se lo facciamo noi in certi paesi africani ci tagliano la testa e ce la tagliano e non solo la testa. Purtroppo anche loro per essere troppo permissivi, mi pare che anche lì c'era la sinistra, non mi ricordo il paese, e sono un po' incasinati, capito? Poi l'Europa è tutta una barzelletta, Tony, perché hai visto, arrivavano gli sbarchi, li volevamo ridistribuire in Europa, e Macron chi era ce li rispediva indietro, capito? Ma questa Europa è, dov'è l'Europa? Ogni voto è dura, ma quello dobbiamo ringraziare Mortadellone, cosa, come si chiama, ancora vivo sarà, Prodi, vabbè. Ascolta, ma Emanuele meglio sta, l'hai più sentito? Sì, fino ad oggi l'ho sentito al telefono, ieri era quella sua, in effetti, ora che sta meglio, ha sempre questo mal di schiena, giustamente nel disco, non è, anche a me fa male che passa, però io cammino meglio di lui, capisco, gli ho sentito di più. E ne ha tre, non esistono una, tre anni. Aspetta, comunque. Sì, questa fonte mortadella ha fatto circa che euro, sta brillante a noi. Purtroppo. Io dico questo, che non so perché l'ho messo questi politici del governo che non hanno neanche studiato. Questo è cosa di rabocciato anche in faccia. Perché vi dico anche a Conte che è stato un avvocato delle cause perse, che l'ha comprata a capo da laurea, cosa è capo di gioco? Ma quando meno hanno studiato che l'Africa è molto più grande dell'Europa, non è cacchio le menti di tutte queste persone che non sanno, è ovvio che poi ci sarà la guerra. È così, è naturale. Lo c'è anche un bambino che va alle prime elementari, che l'Africa è molto più grande dell'Europa, non ci stanno tutti quanti qui. Sì, oppure va bene, Europa, non tutti i paesi li vogliono, addirittura all'est avevano fatto mezzo muro, reti, perché sanno come va a finire, poi quelli dell'est già sono suscettibili, quelli dell'est quando si incazzano forte, mamma mia, gli slavi sono tremendi, peggio dei nuoresimi, e quindi lì non ci scherzerei tanto. Aspetta, mi leggo questi due messaggi vocali che sono arrivati, dai, un attimino. È troppo lungo, dai, me lo ascolto dopo. Tu come mi senti di timbrica? Sto usando il famoso presidente, l'ultimo arrivato. Mike, normale, niente di che. 1, 2, 3, 4, 5. Modulazione come sempre, perfetta, 5 chiara. Siccome qua avevo aumentato appena appena il trimmer ulteriormente per vedere se migliorava, che poi qua gli hanno fatto una cosa mai vista in nessun apparecchio. Allora, questo microfono palmare è a condensatore, no? Diciamo qua c'hai una feritoia, no? Dove il suono entra dentro, dovrebbe andare alla capsula, no? Invece no, la capsula condensatore l'hanno messa di lato ed è praticamente non ha sbocco verso l'esterno, cioè la capsula non è, c'è la plastica davanti, capito? Non comunica con l'esterno. Non so perché di questa scelta, qualcuno ha detto di forare, togliere la capsula, forare in asse con la capsula, oppure spostarla e metterla sulla feritoia, dai. Ti spiego, questo microfono lo fanno in due versioni, una con la capsula condensatore che è messa di lato e non comunica proprio con l'esterno. A me sembra una buttanada, però l'hanno fatto così. Poi l'altra versione del mic, che è identica, la fanno con la capsula dinamica, no, la capsula a 500 ohm. Quella sì che proprio si affaccia sulla sede, sull'apertura frontale. E boh, non lo so il perché di questa scelta. Però tutti mi hanno detto esce bene, quindi la prendo per buona, dai. Certo non è amplificata perché è comunque una radio normale. Beh, c'è un microfono normale, comunque se c'è abbastanza bene, lascialo così, ma così non può trattare più di tanto. Perché secondo che modifica le tempo potrei rovinare, capito? E poi si nota più male di adesso, ma sì, perfetto. Chiaro la tua modulazione, perfetta. Però la voce mia è sempre afona, adesso sta entrando uno spiffero di freddo, mamma mia, non te ne dico, adesso chiudo tutto qua, se no so già come va a finire. Ok, qua non entra nessuno, troppo presto, dai, oppure proviamo più tardi. Vabbè, dopo metto mano al computer e comincio a far roba, dai. Ok Tony, faccio una pausa, io qua lascio acceso, poi se vuole entrare qualcuno bene, se non vuole entrare non so che dire. Ok, no, io faccio la chiamata a amica mia, ho già appunto, mi metto soltanto qualche maglioncino leggero, è un tipo più approfondato organico, ecco. Contratto dovrei essere pronto, fatto con la mamma. Ieri Manuel mi ha fatto i capelli pure, perciò ho tre minuti di sì. Sono quasi i capelli lucido, ma te lo conto. Non mi manco di dai, buon cuore X, buon visione di computer, PC e tutto ciò. A più tardi, ciao, stai bene, ciao per il cuore A. E io ciao alle prossime, ciao ciao ciao, ci sentiamo. Ciao ciao. Ulla, ulla, Gianni. Uè Marco, e allora? Allora? Cacchio, aspetta che mi hai fatto sordo. C'è il volume un bel alto. E beh già, come andiamo? Mi stiamo parlando poco fa con Tonino, poi ho fatto roba anch'io, mi sono allontanato dal coso, mi stavo ascoltando col computer un po' di 40 metri, con le web SDR. Carino, però mancano i 20 metri in quello di Roma, Roma 4 mi pare si chiama, mancano i 20 metri, c'ha, aspetta cos'è, mi pare 10, 40, 80 più altre cose che non uso. Capito, non sono mai andato, la verità, non l'ho mai ascoltato, non so nemmeno di che cosa stai parlando perché non so se bisogna configurarlo, chissà cosa qui o no. No, no, già, anzi è comodo perché molti si stanno dotando di chiavetta CDR, però devi avere un'antenna adatta oppure di quelle che vanno molto adesso di... come si chiama? Loop magnetico, le tonde, dai, che poi hanno un amplificatorino, un sistema di filtraggio, tipo Miracle Whip anche, insomma, sono piccole pure, filtrano e amplificano il segnale. No, qua è tutto, cioè apri una pagina internet, scegli la banda e ascolti e finisce tutto lì, non devi mettere né chiavette né configurare né rotture di palle. Naturalmente stai sempre ricevendo da una postazione remota, cioè a me piacerebbe ricevere con un'antenna che ne so sul tetto, ricevere di mio, lì stai ricevendo da una stazione che può essere a Roma, può essere a Milazzo, che non c'è più quella SDR, non risponde più, o tante altre parti del mondo, già capito. Infatti a me piaceva uscire col Texun all'epoca, capito, quel ricevitore HF con le bande laterali, mettevo l'antenna veicolare, però sentivo roba, cioè già hai capito il discorso, no? Sì, ho capito. E vabbè, quando si sentiva, adesso è tutto grande, criptato, tutto digitale, non si vede più nulla. Vabbè, in HF comunque la fonia c'è, io parlo sempre di bande amatoriali, vabbè, anche HF in questo caso. E comunque è vero che in VEU il traffico è diminuito. Abbiamo i soliti due ponti, VHF, il ponte Cigiar, udibile almeno da qua, che siamo praticamente quasi al piano terra. Però molte cose, cioè, o spendi un bel, guarda che costano bene, dice Vittori, che fanno tutto, no, compreso di star, cioè alla fine per cosa poi? Perché se lo prendi, ne prendi uno che fa tutto, no? Tipo quella OR da 1300 euro solo. Nulla mai detto. Ascolta i pompieri, vai. Come già, Claudio, i pompieri. Vai, ascolta i pompieri, cioè non senti niente. Ciao. Cazzo, sempre, ma te si goge, le vedi tu. Claudio, di qualcosa dobbiamo parlare, no? No, ma è vero, cioè, se vuoi ascoltare roba in fonia, che non sia FM, o spendi. Poi se ce ne fosse uno di sistema digitale, poi c'è Fusion, DMR, D-Star, non so cos'altro ci sia. E quindi bisogna, cioè, se vuoi ascoltare devi spendere un pochino, ma non, alla fine non ne vale la pena. E i pompieri, ma non credo che i pompieri siano nemmeno più udibili, mi Claudio. Non lo so se siano in chiaro o se siano anche loro integrati nel Tetra. Tutti nel Tetra, ciò. No, dico che dici sempre la stessa cosa, lo sai, non c'è più niente da ascoltare voi se non spendete. Dovete comprare ricevitori che siano Fusion, ricevitori che siano all'altezza e poter ricevere per un SWL. I ponti sono tutti attivi, ma sono un dire stronzate, perché hanno attivato anche la R0, quindi, capito? Perciò è tutto attivo. Io c'ero anche stamattina sull'R0, sull'R2 alfa, sull'R7 alfa, sul, non mi parlare link nazionale perché è un troiaio, ma sui punti di mia competenza sono tutti attivi, quindi o c'hai l'attrezzatura per ascoltare o ascolti la minchia. E io, infatti io ascolto la minchia, cioè ce n'è traffico, sì, ma io non ho detto che non c'è, ci sono i soliti due ponti o tre, quanti sono, però mentre una volta erano solo in FM, in normale, non è chiaro, adesso usano chi di Star, chi di RM, Fusion di chi è, di AESO mi pare, di Star e di Icom, e quindi si è un po' differito, dai, il traffico in fonia, si è un po' differito, Claudio. Riprendi Gianni. Ciao Claudio, buonasera. È così. Vabbè, forse Marco intendeva altro, non intendeva quelle cose lì. Non so cosa intendeva, non mi interessa. Io quello che ho funziona tutto e ascolto tutto. Voi, se non, voi, dico voi in generale, che c'è WPL, se non hanno l'attrezzatura adatta, oramai le cose sono cambiate per tutti. Non, è tutto completamente diverso. Vabbè, che sto facendo cosa qua, mi sto ascoltando. Ci sentiamo più tardi se coincide, se no le prossime. Ciao. Allora Marco, riposatoti, sì. Pure troppo. Sì, oggi è casa, ma ne sono sbragato. Ieri solito giro, Platamona, Polo Torres, più Porto Torres che Platamona, però siamo sempre lì già. Dove vai qua? Soliti posti, a meno che non ci vuoi uscire in punta di coso, a sprecare benzina alla fine per fare un giro, ma. Antenna, messa a te. Antenna? Ma che antenna? Ma di baracchino? No. No, perché poi le volte che la mettevo non c'era nessuno. No, l'antenna del ricevitore ho portato, per sentire qualche radiatore, così. Cos'è sto casino? Aspetta, mamma mia. Uff, non sto capendo niente. Ricevitorino in macchina per sentire i soliti ponti amatoriali o in diretta se ce n'è, ma non c'era un granché di roba ieri. E così, dai. E com'è la Platamona, ad esempio? No, vabbè, non più di tanto, ma ormai sai cos'è, non sono uscito non presto, un po' metà serata. ma poi non mi sono fermato, cioè sono passato lì e boh. Diciamo che non è più, sta rinfrescando un po', le giornate stanno rinfrescando, non è più come da settembre, così a fine agosto, settembre, capito già? Ho capito, vabbè. Volantino, mi contro il telefono, mi ha rifatto un messaggio. Marco? Niente, stavo leggendo un messaggio che mi hanno mandato. Ieri stavo per telefonarti, ero sotto casa tua. Ho detto, magari lo disturbo. Se avessi chiamato, vabbè, se ero in casa ti potevo dare quella cosa lì. Non so quanto ne valga la pena però per quel tipo di microfono già. Comunque vedi tu, dai. E per divertirmi, per passare il tempo. Lo smonto, lo faccio, metto il filo nuovo e vedo un po' come va. Poi se non mi piace, vabbè, pazienza. Te lo posso anche tornare. No, no, per carità, buttacelo, se non serve buttacelo. Però secondo me siamo sempre lì come Rod Devil già. Aspetta un attimo. Tutti gli apparecchi con gli attacchi uguali. Lo posso provare in tutti gli apparecchi per vedere se va, capito? Tranne, vabbè, il base della Intec che c'ha tanti attacchi a lui. Quelli da 6 o 7. Però gli altri sono tutti con lo stesso attacco, capito? Quindi posso provare diversi apparecchi. Sì. L'attacco dovrebbe essere quello Superstar Galaxy, compresa la... non so se ho collegato la massa di ricezione oppure se non l'ho collegata, questo non me lo ricordo. Però secondo me è come il Rod Devil, Red Devil, quello lì. Troppo metallica, troppo acuta, ma... E infatti tu senza toccare il cavo lo provi così com'è, se le connessioni sono già quelle, se non ne vale la pena l'ampazilume, a lunga sonetto proprio. Al limite togli la capsula ceramica, non so se può servire per altri microfoni, è grossetta, non è di quella condensatore bella manna. Sì, ma c'è proprio quella che non va. È proprio quella che fa uscire la voce. Ma magari in macchina o rende di più, capito? Perché è squillante, magari ti ascoltano io. Sì, i condensatori sono buone, capito? Buone, cioè hanno una gamma, come dire, di toni, di tutto completa, dai, come dire, molto fedele. Forse più della dinamica, poi dipende, se capsula è capsula, ce ne sono anche dinamiche da condensatori di tutti i tipi, piccole, grandi, fatte bene, fatte meno bene, non lo so già. Sì, oggi giornata sbrago. Vabbè, oggi serve per riposare, poi il resto della settimana sempre per riposare, così. Sì, beh, alla fine io non è che faccia molto, sì, sempre solo commissioni, queste cose, banca, coso, a pagare le poste, a fare la spesa, solite menate, dai. E vabbè, l'interessante è fare qualcosa. Sì, ma infatti, cioè io certe volte sto meglio quando esco, quando faccio roba, quando impiego il tempo. Se sei troppo a casa, per quanto magari qualcosa da fare la trovi, però non è la stessa cosa già. Non è la stessa cosa. Oh, via, mi sto tutto stiracchiando. Ogni sbadiglio. Fra un po' mi mando giù il microfono. Aspetta, invece me ne viene usando pure a me. Eia. No, io mi sto addormentando spesso invece di fronte alla TV. In poltrona, che è una specie di sdraio di quelle regolabili, no? Davanti alla TV. Certe volte quando i film sono lenti, le trame, sai quando il film è lento, che non è d'azione, proprio ti addormentimi. Sì. Ogni tanto sto lasciando uno spazio per vedere se vuoi entrare qualcuno, se lo dice che facciamo ping pong. il dittino, il vizio, anche a me viene il vizio del dittino veloce, però non so perché, come certe volte voglio dire tante cose e poi me le dimentico. Allora quando mi viene la battuta o la cosa al termine, allora subito voglio riprendere prima possibile per dirla, e poi si rischia di non lasciare spazio. E devo stare più attento anch'io, dai. Sì, basta iniziare a lasciare lo spazietto. E anch'io ho quel vizio, lo so, ma... Spini Gonzale, come ti chiamo l'arcuto. Già sei poco veloce anche tu, No, ma il più veloce di tutti quella sera era Coso, Chiodo. Ma no, senza scherzi, la portante non era nemmeno, cioè lo Smith non era manco sceso che lui aveva già ripresa, una cosa incredibile, incredibile, io non c'ho riflessi così pronti. Sì, sono ragazzi, e non vuoi mettere un ragazzo di quanti anni c'ha, 18 anni, i riflessi di una persona che ne ha 45-50. È così, purtroppo è così. Che domenica non si entrano nessuno, oggi è accesa l'ora, prima dell'ora di pranzo, verso mezzogiorno, così, non c'era nessuno. Ho detto, ma deve essere così, sono tutti capi in girella. E beh, chi può va in campagna, va da parenti, cioè non è che si può stare tutta la sera a casa, no? Noi, vabbè, ormai è passata la stagione, ogni tanto domenica andiamo in campagna da mia zia, più che altro dentro, però mangiare fuori non è che, a meno che non ci sia una giornata di sole veramente bella. Oggi è già troppo ventilata, l'aria è più fresca, qua stanno entrando anche spifferi, quindi... E quindi così, dai. Ma oggi non ci sei andato in campagna? Sei stato tutto il giorno a abbandonare. Certo, me la sono presa anche comoda. Poi mi sono fatto i capelli, la barba. Che ormai la barba ce l'ho bianca. E i capelli stanno imbiancando a vista d'occhio, Sì, poco male questo. La fase di invecchiamento ci deve essere, se no uno rimane sempre giovane, normale che vada avanti la vita. È un peccato però, dai. L'altro giorno ho fatto una battuta, ho fatto una battuta a Riccardino, ho detto venderei l'anima al diavolo per tornare a avere l'età che c'hai tu. E lui cosa ti ha detto? No, niente, forse si è messo a ridere, eccetera. Va bene, vabbè, ancora, non dico metà strada, però è brutto diventare vecchi comunque. Non, d'altronde legge della natura. Purtroppo sì. Beh, se uno non invecchia vuol dire che è morto prima, quindi è meglio che invecchi. È importante invecchiare male, invecchiare bene già, perché insomma c'è chi invecchia più male, alla fine diventa una tortura. Come è meglio bruciare subito che spegnersi lentamente, come dicevano in quel film. Ma non è una scelta che facciamo noi quella marca. Noi è una scelta di vita, fosse stata una scelta di vita avremmo scelto di invecchiare sani, ma purtroppo c'è chi vive l'Alzheimer, c'è chi lui, per essere così meglio gusti. Infatti, poi come diceva il colmo di tutto, meglio ricco e sano che povero e malato, il colmo proprio, da un estremo all'altro. Ma già c'è anche la via di mezzo, meglio essere sani e non essere anche ricchi, ma chi se ne frega, la ricchezza è la salute, una delle ricchezze maggiori è la salute, davvero tanto per vivere voi, per essere da fatti di essere ricchi. Avanti Brecco. Se a te non ti va ascoltare basta spegnere l'apparecchio così non ci ascolti. No, ma come l'hai detto, cioè, sono discorsi di vita, non è che uno deve fare sempre i soliti discorsi. Tu non ti sei presentato. Io sono Doppio Room e c'è anche Marco Condor. Avanti, chi si? No, non ho copiato. Come? Charlie, da dove moduli? A Sassari. Ma non mi ricordo di te. Io ci sono tantissimi anni in frequenza, ma non mi ricordo di averti mai sentito. Va bene, buonasera. Buonasera. Se vuoi postare un discorso allegro, impostalo tu. Andiamo avanti. No, non me li ricordo questi nominativi. Mi ricordo Ala Verde, ma non Vela Verde. Oh Gianni, aspetta che chiudo tutto un attimino, che c'è troppa corrente qua, arrivo subito. K. Sì, dai. Che zona moduli tu? K. Quanti anni fa, che modulavi? C'ero anch'io quell'epoca lì, ma forse magari modulavamo in diversi canali, non lo so, perché allora c'era l'imbarazzo della scelta nei canali. Che hanno detto? 30 anni fa. Vabbè, no, io non mi ricordo il tuo nominativo Charlie, non mi viene in mente nulla. Magari con tanti anni che sono passati posso averlo anche dimenticato. Mi hanno centrato perché tu Gianni? Lo conosci qua? Sto dicendo coglionate, quello che ti 40 anni fa. Ma interesse di entrare in frequenza non ne hai più. Ho detto interesse di entrare in frequenza non ne hai più, lo stai facendo solo per aggiustare l'apparecchio. Ma io su questo non ti posso rispondere perché non ascolto quelle bande lì. Non sto più ascoltando da quando... Non sto più ascoltando nulla, cioè non ascolto più nulla, c'è un ricevitore ma non serve a niente davvero. Ma tu scusa, come mestiere cosa fai? Tecnico? Avanti Claudio, se vuoi entrare. No, volevo solo fare una domanda a questo Charlie. Tu sei entrato 40 anni fa, hai detto. Io ci sono 45 anni in radio, forse anche di più, perché sono entrato nel 1974. Nel 75 ho fatto la concessione. Il tuo nome mi ricorda qualcosa, ma tu sei entrato molto, molto, molto dopo. Buono, buono, tu sei entrato negli anni 80, non negli anni 70. Arrivi molto basso di radio, aumenta la radio, avvicinati al microfono, segnale 8, ma radio sei troppo basso. Allora, tu così, io sono arrivato a Sassari nell'85, mi sono trasferito da Porto Torres a Sassari. Ok, e ti ho sentito un paio di volte, proprio mentre stavo parlando con Torre alla Verde io, ok? Quindi poi nel 93 noi siamo andati a dare gli esami da Radio Amatore con la buonanima di Torre alla Verde e poi non ti ho più sentito. Quindi tu sei entrato dopo gli anni 80, sicuramente 82-83, non negli anni 70, perché negli anni 70 io te non ti ho mai sentito, mai e poi mai. Io sono entrato nel 1974 e nel 76 ho fatto la prima concessione. Poi nell'83 mi sono trasferito a Sassari in via Montegrappa e non avevo la possibilità di mettere il baracchino. Due anni dopo l'ho messo in via Ugo la Marfa dove abito adesso. Quindi... Va bene, dai, comunque il mio nativo è Claudio Sparviero per la cronaca. Bene, bene, ok, sì, comunque è così, vai tranquillo che è così. Perché io ti ho sentito, c'è una memoria di ferro purtroppo, è un mio problema. Io ti ho sentito una volta parlare con Fidel Castro, ovvero a casa di Torre, e tu hai salutato anche a Torre, io lì, ti sto parlando proprio... In quegli anni lì, 81-82, non negli anni 70, forse anche 83, se la memoria non mi inganna, ma erano quegli anni lì, perché io lavoravo all'Eni che era a Porto Torres e quindi erano quegli anni lì. Va bene, ok, riprendi Gianni, riprendi, volevo solo rinfrescare la memoria a Charlie, riprendi. Ehi, ehi, c'è anche Marco, avanti. Io non me lo posso ricordare assolutamente, ma qui c'era talmente tanta gente, non posso ricordare, dai. Poi anni 80 magari era già nato via, e poi noi avevamo il nostro gruppetto di giovani su un canale e alla fine non entravamo nelle altre ruote, dai. Tutti, mamma mia. lunga la serata, però va bene, dai, riprendi Claudio, dai. No, vi ascolto, solo per salutare a Charlie, per rinfrescare la memoria, perché mi ricordo perfettamente del suo nome attivo, e lui si ricorda del mio sicuramente, perché ci abbiamo anche parlato. Charlie, va bene, quindi ben rientrato e niente. Gianni, riprendi tu, fai girare, dai, che io sono qua, sto manomettendo una radio. E io là. L'hai beccato quella cosa là, Claudio? Comunque vi siete sovramodulati, Claudio, con Charlie. Vi siete sovramodulati? Qua arriva a basso. Sicuramente lì vicino a te. Che cosa già? Ho detto il vetrino, l'hai beccato. No, lo sta cercando Gianni, io ho abbandonato, non me ne ho fatti niente. Ha detto che lo cercava lui e sicuramente ce l'aveva, e appena l'ho trovato mi chiamava, non mi ha chiamato, vuol dire che non l'ha trovato, anche perché poverino è incasinato con questa cosa che sta facendo, quindi lo lascio tranquillo, non è così urgente. Mi ho comprato anche un'altra di radio, quindi no, non è che sia così urgente, dai. Cappa. Va bene, avanti. Luca, buonasera. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao Claudio. Charlie, avanti, mi ascolti? Mi ascolti Charlie, sì? Ah, ok, dov'è incastonare i moduli? Ah, ecco perché arrivi furtino, dai. Ti ascolto bene, sicuramente anche tu mi ascolti bene, perché anch'io sono qua alla veloce. Ah, ok, no. Ok, avanti Marco, ci sei? Ciao Lu. Segnale tu al solito qua, sì, poco meno di 9, la modulazione è ottima. Cosa stai usando attualmente, la bazooka o qual era? No, quella autocostruita da Luca, là, quella radiale del 90 qua. La bazooka non va, per carità, no, è tutta piena d'acqua dentro, non va. Qui c'è una stazionaria a 3, questa qua, con questa qua ce l'ho a 2, ma non mi interessa, tanto passaggi corti. Poi sono scippatore, non scalda, va bene. Sì, infatti, basta non fare passaggi lunghi, sono tollerabili a 2 le stazionarie anche, magari anche evitando di spingere troppo il finale, cioè se puoi regolare la potenza limite la metti tipo 4-5 watt, non dovrebbe dare problemi, dai. Aspetta un attimo il telefono, porca miseria. Dai Gianni, riprendi tu. Tu più. Al telefono. No, tu. No, al telefono, sì, cioè, vabbè. Quanto ti arriva a te, Gianni? Qua arriva a 9:10, a te? No, stavo dicendo a Claudio, quanto gli arrivavi tu? Se tu da me arrivi 9:10, tu Claudio non c'è più, è sparito. Grazie, sì. Luca, bene sto facendo, grazie. Luca, bene sto facendo. Prova, Luca, bene sto facendo. Ciao Giulio, benissimo. Ciao, continua. Io sono in standby. Questa c'è anche importante. Vado giù, con Graziano sono in PMR. Buonasera a tutti.